allora eccoci qua, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Radio Africa, trasmissione dedicata alle sonorità del continente africano. Insieme fino alle 18. E vi ricordo il contatto telefonico 06 49 17 50. Radio Onda Rossa non fa pubblicità, quindi se volete sostenere questa radio, il conto corrente postale è il 6180 4001 intestato alla cooperativa Laboratorio Sociale 2001, via Le Voci 56, Roma. Cominciamo con le nostre selezioni e cominciamo con Tony Allen. Tony Allen, che è stato uno dei grandi creatori dello stile Afrobeat, classe 1940 di Lagos. Lui cominciò a suonare ascoltando Max Roach e cominciò a sentire soprattutto il jazz, e poi l'incontro con Fela, prima i Kula Lobitos, e poi tutto il percorso fino alla fine degli anni 70, quando cominciò appunto il suo percorso da solista, da Secret Agent. Il brano è Elevon Paul. We'll be right back. one of them is longing to be free. Too many prisoners slave to pleasure and gold. Don't even know it's prison. I'm bound to the white boat. Down by the change of ignorance, victimized by circumstances, found guilty, law and justice blind. The history of magical love, you once man. So everywhere I look, I find too many prisoners. Too many. Tony Allen con questo suo album Secret Agent, quando scoprì che Lagos era troppo piccola per lui e Fela, e se ne andò in Francia, dove appunto cominciò a produrre. E allora Fela era un personaggio molto particolare, che comunque riusciva a suonare insieme a tantissimi artisti. Uno di questi è stato sicuramente Roy Ayers, suonatore di funk, soul e jazz. Ebbene, con lui hanno fatto questo disco Music of Many Colors, 2000 Black. 2000 Black è un brano che dice appunto che nel 2000 i neri saranno liberi. Purtroppo non è così, basta ricordare appunto la storia di Wallace, il Black Panther, che è stato appunto liberato ieri dopo 40 anni di isolamento e purtroppo appunto è morto, accusato ingiustamente di aver ammazzato un poliziotto. Le prove non ci sono mai state, ma la giustizia bianca appunto non ha bisogno di prove per condannare un nero. It's 2000 black, yes. And of course we're hoping that by the year 2000, we know that by the year 2000, that's even better, everybody will be knowledgeable. You understand, everybody black, 2,000 black, 2,000 black, 2,000 black, 2,000 black, 2,000 black, 2,000 black, 2,000 black. Say a few things. Men are born, kings are made, treaties are signed, wars are fought. Every country has its own problems, so has Nigeria, so has Africa. Let us bind our wounds and live together in peace. Nigeria, one nation, indivisible. Long live Nigeria. Viva Africa. The history of mankind is full of obvious turning points and significant events. Though tongue and tribe may differ, we are all Nigerians. We are all Africans. War is not the answer. It has never been the answer. And it will never be the answer, fighting amongst each other. Let's live together in peace. Nigeria, one nation, indivisible. Long live Nigeria. Viva Africa. Let's eat together like we used to eat. Let's plan together like we used to plan. Sing together like we used to sing. Dance together like we used to dance. United we stand, divided we fall. You know what I mean. I hope you did, my friend. Let us bind our wounds and live together in peace. Nigeria, one nation, indivisible. Long live Nigeria. Viva Africa. Brothers and sisters in Africa, never should we learn to wage war against each other. Let Nigeria be a lesson to all. E lui è Fela, Fela Kuti, in questo brano Viva Nigeria, un brano suonato insieme ai Kula Lobitos e fa parte delle registrazioni che lui ha fatto nel 1969 a Los Angeles dopo un viaggio che per lui è stato fondamentale una volta che si è trovato negli Stati Uniti. Lui stesso dice che il mio viaggio in America nel 69 fu un punto di svolta nel mio modo di pensare e di approcciarmi alla vita. L'America è un grande paese, io ero invidioso di quello che c'era in America e quello che noi non possiamo avere, ma mi sono anche reso conto che c'erano tantissime storie di gente nera che veniva dall'Africa e che io appunto non conoscevo, e sono entrato in contatto con gli insegnamenti di Marcus Garvey, di Malcolm X e delle Pantere Nere. Ed è proprio lì che Fela aveva deciso, dopo questo viaggio, di cambiare il nome della sua band e anche insomma di approcciarsi in maniera diversa. E fu un viaggio importante anche perché lui stesso dice che fu la prima volta che fumò la marijuana a Los Angeles. Lui proveniva da Lagos, ma era passato per Londra dove aveva studiato musica, ma l'incontro appunto con il pensiero di Marcus Garvey dei Black Panther soprattutto lo cambiò radicalmente. Allora 16:52, questa è Radio Africa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Loro si chiamano gli Jado Sisters. We shout freedom, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Let God know we're doing all right now. Yes, I think so, brother. Get on now. Let me hear you say, we're cashing in prostitution, yeah. Cashing in revolution, yeah. We are cashing in. I'm a minister, mercenary like brother preacher. Hello, we're cashing in. Still, poverty is a common sight. Common sight, common sight, common sight, common sight, common sight, common sight. Sono Taiwo e Keinde Lijado, due gemelle, vengono dalla Nigeria. Il brano che ci siamo ascoltati è Cashinin, è del 1976. Loro si chiamavano The Lijado Sisters e hanno suonato intorno agli anni 70 per parecchio tempo. Hanno suonato insieme a King Sanyade, con Art Blakey, Ginger Baker, le leggende, e loro poi si sono trasferite negli Stati Uniti, dove vivono ad Harlem. Without power, yeah, yeah. Without power. Hey man, what is it? It's a brand new Wayo. Thank you. Sola Iseli e questo brano che si chiama Mixed Grill, ed è un musicista nigeriano che ha suonato anche lui con moltissimi artisti e ha portato avanti, diciamo, questa mescolanza fra i ritmi nigeriani tradizionali e quasi la disco music, questi potenti bassi. Lui ha avuto anche un percorso pubblico importante, perché è stato premiato nel 2009 dall'ex presidente nigeriano Yar'Adua per il suo ruolo nel tentativo di trovare un punto di accordo di pace con nel Delta, nella zona del Delta del Niger, cercando appunto di portare avanti un processo di riabilitazione verso gli ex combattenti del Delta, i militanti del Delta del Niger, il movimento della liberazione. E allora 17.03, questa è Radio Africa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza. E allora loro vengono invece dal Benin, si chiamano Gabo Brown e l'orchestra Polyritmo, It's a Vanity. Cabo Brown insieme all'orchestra Polyrythmo, un'orchestra monumentale che ha fatto la storia della musica del Benin, in questo It's a Vanity, un groove molto molto funk. E allora, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Radio Africa, sintonizzate e sintonizzate sugli 87.9 della modulazione di frequenza. Ce ne torniamo in Nigeria, dove incontriamo Johnny Astrup. Johnny Astrup era conosciuto come il Soul Brothers Number One, una vera e propria star nella musica dell'Africa occidentale. Nel 71 lui suonò insieme a Ginger Baker e fece un tour in Europa insieme alla Air Force Band. Dopodiché se ne ritornò in Nigeria, dove formò la sua Mono. E allora, da un album del 1978, Wake Up Your Mind, il brano che ci ascoltiamo è Watch Out. So what? Johnny Astrup con il suo Watch Out. Johnny Astrup, un artista nigeriano che aveva un grande talento non solo musicale, era anche un artista impegnato che raccontava con i suoi brani quello che erano le contraddizioni della Nigeria post indipendenza. E dalla Nigeria ce ne andiamo a Kumasi in Ghana, dove incontriamo Pat Thomas. Pat Thomas è stato tuttora un musicista che ha avuto un grande merito per quanto riguarda lo sviluppo del genere high life, e lui ha suonato insieme a Ebo Taylor, altro grande maestro del genere, con i suoi Blue Monks, e poi ha fatto una sua nel 73 una sua band che si chiamano Sweet Beans. Allora Pat Thomas ce lo ascoltiamo in un brano che è Yesu San Bra, che è un brano che possiamo definire un brano disco High Life. Allora lui è Pat Thomas. Yes, please. E allora, sempre ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Radio Africa, vi ricordo il contatto telefonico che è 06 49 17 50, e poi sì, anche se volete scrivere radioafrica@ondarossa.info. Siamo arrivati alle 17:17 per questo sabato, ce ne rimaniamo in zona Ghana. Lui è Ebo Taylor Jr., il figlio di Ebo Taylor, insieme ai suoi Vuta Vazuri. Allora un brano particolarmente interessante, Mondo Soul, Funky, allora Ebo Taylor Jr. Do the funky. Hey, loving people, let the mondo soul funky. Hey, loving people, let the mondo soul funky. Hey, loving people, let the mondo soul funky. Soul Funky, Ebo Taylor Jr., il figlio del grande Ebo Taylor, insieme ai suoi Vuta Vazutu, un brano del 1978 che dimostra come le nuove generazioni di musicisti ghaniani si distaccavano anche dalla life ed erano insomma al passo con i tempi. E ce ne andiamo, ce ne ritorniamo in Nigeria, loro sono i De Sara All Star, vengono da Jos, una città che si trova al centro della Nigeria. Take Your Soul. 1976, loro di Sara All Star, un brano che faceva bruciare le dance floor di Lagos, ed erano gli anni, fine degli anni 70, quando la Nigeria, grazie ai proventi del petrolio, aveva un certo sviluppo e cominciavano anche, diciamo così, ad arrivare a Lagos artisti da tutto il paese. Altro protagonista di quel periodo era sicuramente Sir Victor Uifo, detto anche Guitar Boy, un musicista particolarmente eclettico e diciamo anche eccentrico, un sound che si ricorda molto il rock, il funk mescolato con l'high life. E ci sono dei DJ che non hanno potuto fare a meno di riprendere questo sound, rimescolarlo come hanno fatto Frankie Francis e DJ Sinbad, che hanno rivisto questo brano del grande Guitar Boy Victor Uifo. Thank you. mele, oh we pie mele, oh ma pie mele, ta migele pe nu bege, e fai po suna me no ke ige iga mu wese, oh ki si rievolo, yo, yo, yo, oh ki si rievolo, yo, yo, yo, oh ki si rievolo, yo, yo, yo. Suoni moderni, distorsioni e beat, eccolo il riff inconfondibile di Victor Waifo. 17:31 all'ascolto di Radio Onda Rossa, 87.9 la frequenza, questa è Radio Africa, 06 49 17 50, il contatto telefonico. E c'è stato un periodo d'oro anche per la musica africana in Costa d'Avorio, era Abidjan nel periodo che va dalla fine degli anni 70 ai primi anni 80, anche lì era il periodo in cui appunto giravano un po' di soldi, la Costa d'Avorio era diventata in qualche maniera il punto di riferimento della France-Afrique. Abidjan era una città moderna con i grattacieli e lì insomma c'era anche Jimmy Yasinté, che era un ragazzo di Trècheville, un quartiere di Abidjan, che aveva cominciato a cantare, aveva partecipato anche ai dischi con Nayan Kabelli e a numerosi altri musicisti della Costa d'Avorio fra gli anni 70 e gli anni 80. Lui è divenuto famoso nel 1979, un album che si chiama Yajimonu, dove c'è una canzone appunto che si chiama Yashimonu, e questo album raccoglie dei ritmi tipici della tradizione Baulé-Goli, però naturalmente con delle influenze afrobeat, soul e disco. E allora Jimmy Yasinté in questo Yashimonu. Thank you. Chimino, yak chimino, yak chimino, sukosi music. Yaswa, mimlamu, yukosi music. Keje, keje, keje, keje, saha, only music. Yaswa, mimlamu, yukosi music. Keje, keje, keje, keje, saha, only music. Music, music, only music. Sono Jim e Foti, vengono dal Camerun, le loro radici sono ben ancorate nella Makossa e il brano è Douala Night, un brano appunto che diciamo così si fa un po' prendere da ambientazioni un po' disco, ma d'altra parte Douala by Night, insomma, deve essere sicuramente un posto dove ci sono tantissime mescolamenti di generi e anche musicali e naturalmente anche un po', diciamo così, da ambientazioni disco e Ratovenance, lui viene dalla costa D'Avorio, e ce lo ascoltiamo in questo brano True Love. Allora, si sono fatte le 17.42, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, 87.9 la modulazione di frequenza, questa è Radio Africa. Vi ricordo anche il contatto telefonico che è 06 49 17 50, e se volete scrivere radioafrica@ondarossa.info. E allora andiamo ancora avanti fino alle 18, lui si chiama Orlando Julius. Disco highlight, everybody, do it, disco highlight, do it, disco highlight. Allora, si sono fatte le 17.46, ultimo quarto d'ora di Radio Africa, generalmente dedicato agli approfondimenti sui fatti africani, e questa volta vogliamo un po' fare un focus su quello che è successo in Kenya, l'assalto a Nairobi al Walmart, un assalto a un supermercato che si trova proprio al centro della megalopoli keniana. È un luogo frequentato soprattutto da occidentali, l'assalto degli Shebab somali, e che ha avuto una conseguenza dal punto di vista appunto delle conseguenze, come sono stati più di 70 morti, più di 4 giorni di assedio, e quindi diciamo dopo quel giorno la vita politica keniana e anche la situazione rispetto al sud della Somalia non è più la stessa. Ma questo evento ha avuto, diciamo così, come effetto secondario quello di far conoscere l'intervento dell'esercito keniano nel sud della Somalia, un intervento che ormai diciamo dura dal 2011 e che nasconde degli interessi strategici e politici che fino adesso appunto non sono stati, come dire, sono stati un po' sotto traccia. Dal punto di vista degli equilibri politici interni, sicuramente il presidente Uhuru Kenyatta ne è uscito per certi versi rafforzato, considerando che poi fra non molto dovrebbe rispondere di fronte alla Corte Penale Internazionale di Giustizia dell'Aia di ben 5 capi di accusa per crimini contro l'umanità, e l'accusa è quella di aver gettato l'olio sul fuoco durante la crisi post-elettorale alla fine del 2007, appoggiando una setta Kikuyu. Kikuyu è una delle popolazioni del Kenya. E quindi durante il confronto elettorale il suo vice William Ruto, anche lui è stato accusato e dovrà presentarsi presso il Tribunale della Corte Penale dell'Aia. E Uhuru Kenyatta si è presentato in televisione con gli occhi rossi, dicendo appunto che il Kenya è stato sfidato dal male ma che ha trionfato. Ma questi accenti vittoriosi naturalmente non hanno potuto nascondere invece l'insuccesso da parte dei servizi di sicurezza keniani, che non sono riusciti appunto a controllare la situazione, non avevano previsto l'attacco, il bagno di sangue durato 4 giorni, e molti parlamentari oltretutto insomma hanno denunciato le falle di un sistema di sicurezza e anche l'ampiezza della corruzione della polizia, dei servizi che erano incaricati di controllare le frontiere. Ma ci si chiede appunto perché il Kenya è intervenuto militarmente in Somalia. Il Kenya confina appunto con il sud della Somalia in una zona che si chiama Jubaland, e questo territorio dove c'è anche il porto di Kisimayo. Proprio il 29 agosto ad Addis Abeba è stato raggiunto un accordo fra le autorità centrali somale e quelle appunto dell'amministrazione del Jubaland per creare una situazione di quasi autonomia, ed è un nuovo corso in questa parte del sud della Somalia, che appunto confina con il Kenya e con l'Etiopia. È diventata praticamente quasi indipendente e il fragile governo somalo non ha potuto fare nulla perché un pezzo del territorio fosse al di fuori del proprio controllo. Ma d'altra parte questo processo di disgregazione della Somalia ormai va avanti da tempo, si potrebbe dire anche dalla caduta di Siad Barre, e infatti non solamente è un problema che riguarda il Jubaland ma anche il Puntland e altre regioni che si sono poi identificate nel Somaliland. Il presidente della Somalia, Hassan Sheikh Mohamed, non ha potuto fare altro che prendere atto di questo, e in questo processo, diciamo, di questo accordo del 29 agosto sono stati testimoni Nicholas Kay, che è l'inviato speciale delle Nazioni Unite in Somalia, Catherine Ashton, che è il responsabile della politica estera dell'Unione Europea, supportata poi dall'Unione Africana, in particolare da Dlamini Zuma, che è la moglie del presidente sudafricano Zuma, ma anche la presidente dell'Unione Africana, che hanno definito questo accordo storico. Ma c'è poco di storico, soprattutto perché appunto è un processo che in qualche maniera incide sulle divisioni territoriali, e poi soprattutto perché appunto nel Jubaland c'è un coacervo di interessi, un ruolo strategico importante. Gli interessi che ruotano intorno a questa regione sono innanzitutto legati al porto di Kisimayo. La prima ricchezza di questa zona innanzitutto è il territorio, è il fiume Juba, le cui sorgenti sono in Etiopia, che vengono alimentati da altri affluenti che si originano in Kenya. Quindi l'agricoltura e l'allevamento che sono favoriti da questo corso d'acqua hanno spinto più tribù a interessarsi della zona, e quindi è una zona piuttosto florida da questo punto di vista. E poi c'è il porto di Kisimayo. Kisimayo è una cittadina portuale che anni fa aveva appena 80.000 abitanti, adesso ce n'ha quasi 800.000, e che costituisce un elemento di importanza strategica nella regione, perché lì vengono alimentati i commerci leciti e illeciti, soprattutto nel settore della pesca, del commercio, del carbone vegetale, e ruotano intorno a questo porto anche molti altri commerci che sono connessi agli aiuti militari, e infatti questo aspetto più di ogni altro, agli aiuti umanitari. Questo aspetto più di ogni altro infatti ha attirato poi l'attenzione delle milizie islamiche di Al-Shabaab, che hanno conquistato Kisimayo nel settembre del 2006, stabilendovi la loro seconda base più importante dopo Mogadiscio, e qui hanno sviluppato appunto fiorenti traffici, soprattutto taglieggiando gli aiuti umanitari e gestendo lucrose attività della pesca di frodo. L'intervento dell'Etiopia in Somalia e successivamente hanno interrotto il controllo della parte delle Shebab sulla città, generando una fuga verso le vicine aree rurali. Però l'Etiopia non è riuscita più a controllare questa regione, e quindi nell'agosto del 2009 sono ritornate appunto le milizie degli Shebab. E quindi questa zona, lo Jubaland, non ha solamente questa importanza dal punto di vista strategico, ma sono state scoperte anche delle importanti risorse petrolifere, soprattutto sulle coste e offshore. E infatti questa situazione, queste scoperte hanno ulteriormente complicato la situazione, perché appunto il Jubaland sembra essere seduto su delle riserve di petrolio. Molti campi sono stati da molti posti sono stati trovati appunto al confine fra la Somalia il Kenya ha dei pozzi petroliferi e il governo della Somalia rifiuta di riconoscere le licenze di sfruttamento che sono state garantite alle compagnie multinazionali da parte del Kenya, soprattutto la Total e la norvegese Statoil. E inoltre sono state trovate anche altri giacimenti le cui licenze di sfruttamento sono state date anche all'ENI, che preme per ottenere questa possibilità di sfruttamento. Nasce da un po' dagli anni 60 la definizione dei confini fra il Kenya e la Somalia. Il Kenya, l'interesse strategico non è solamente quello di appunto prendersi una zona che dal punto di vista strategico, con il porto di Kisimayo e con le risorse petrolifere che sono nel sottosuolo, può essere molto importante per lo sviluppo, ma si tratta anche di impedire l'afflusso dei profughi somali che erano arrivati in Somalia. E l'intervento militare keniano è sostenuto dagli Stati Uniti, ma non solo dagli Stati Uniti, è sostenuto anche da Israele. Israele ha un accordo militare con il Kenya, tant'è che Netanyahu disse che i nemici del Kenya sono anche i nemici degli israeliani, e infatti durante l'assalto al grande magazzino di Nairobi, la cui proprietà è israeliana, ci sono state anche la consulenza, oltre che da parte di agenti dell'FBI, anche da parte dei servizi segreti israeliani. Agenti dell'FBI perché pare che il comando che ha fatto l'azione fosse costituito soprattutto da somali di origine americani di origine somala, e quindi alcuni che vivevano proprio negli Stati Uniti, e infatti fra di loro i testimoni dicono che parlavano in inglese. E quindi insomma sono degli aspetti che complicano ulteriormente il quadro, anche perché poi soprattutto ci fanno rendere conto di come l'intervento, di come l'attacco degli Shebab a Nairobi abbia in qualche maniera permesso di svelare, di porre l'attenzione su questo impegno militare del Kenya, impegno militare del Kenya che si collega al disfacimento dell'entità statale somala e che può condurre anche a una nuova definizione delle frontiere in Africa, e quindi a rompere un tabù che già si è rotto nel Sud Sudan con la costituzione di questo stato con capitale Juba, con questo stato del Sud Sudan che galleggia sul petrolio, e quindi gli interessi geostrategici, gli interessi che hanno a che vedere con le risorse naturali in questo processo di neocolonizzazione dell'Africa che ormai va avanti da parecchi anni, diciamo, hanno avuto il sopravvento sulla definizione delle frontiere post-coloniali. E quindi il Kenya comunque è un paese che ha una serie di contraddizioni enormi, e probabilmente l'intervento keniano insomma rischia anche di fallire. Gli Shebab erano già dati per sconfitti, per dispersi, sono stati cacciati da Mogadiscio. Però nonostante questo sono riusciti a riorganizzarsi e quindi un po' forse con l'aiuto del network di Al-Qaeda, oppure forse anche perché in qualche maniera disperdendosi nelle zone rurali sono riusciti a trovare anche la possibilità di organizzarsi, insomma hanno fatto questo colpo che in qualche maniera ha riportato all'attenzione la questione somala e l'intervento del Kenya. Why these people come to Africa? Long time ago. Why these people bring ships and guns? Long time ago. Why they separate black family? Long time ago. Why they take the people away? Long time ago. Why? Long time ago. E si sono fatte le 18. Why they take the people, put them in chains? Why they make some people change their names? Why they take the people in people? Sempre l'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza 06 49 17 50, il contatto telefonico. In attesa di Soul Peanuts, che è previsto nel palinsesto dalle 18 fino alle 19.30. I have the answer. Long time ago. I know why these people È intanto un'iniziativa per questa sera, sabato 5 ottobre, allo spazio 53 a via Mazzola 13. Ci sarà un concerto benefit per gli arrestati del G8. L'inizio del concerto è alle 22:30 puntuali. Ci saranno i Romanets, che è un gruppo che fa un tributo ai Ramones. Ci saranno gli Alta Shit, i Poker, Punk 77, No Confidence, quindi un concerto soprattutto punk hardcore, poi cena, birreria e bistrò, e un concerto, un'iniziativa benefit per gli arrestati del G8. Allo spazio 53 via Mazzola 13. Realize that there's only just one way. Get serious. You got to get serious. Observe the past and check out now. There's only one way to change somehow. Get serious. You got to get serious. Hey, check this out. We're reminding you of the real deal and what you have to do. Don't waste time. Don't be late. Don't sleep on the message. Don't hesitate. You got to be aware of the way things were. Make sure they will not again occur. Get serious. You got to get serious. Life's not a game, that's for real. You've got to get an education so you can deal. Get serious, you got to get serious. You got to plan ahead, look into the future. You dig the situation, I know that it's a situation. Get serious, you got to get serious. Move forward, move in stride. We can all help each other if we unify. Get serious, you got to get serious. Brothers and sisters out on the street, you've got to get down with your history. Don't just live your life day by day. Realize that there's only just one way. Get serious, you've got to get serious. Observe the past and check out now. There's only one way to change somehow. Get serious, you've got to get serious. Hey, check this out, we're reminding you of the real deal and what you have to do. Don't waste time, don't be late, don't sleep on the message, don't hesitate. You got to be aware of the way things were, make sure they will not again occur. Get serious, you got to get serious. Life's not a game, that's for real. You've got to get an education so you can deal. Get serious, you got to get serious. You got to plan ahead, look into the future. You dig the situation, I know that it's a situation. Get serious, you got to get serious. Life's not a game, that's for real. You've got to get an education so you can deal. Get serious, you got to get serious. You got the plan ahead, look into the future. You dig the situation, I know that it's a situation. Get serious, you got to get serious. Move forward, move in stride. We can all help each other if we unify. Get serious, you got to get serious. Hey yo, people in the world, Francé to the UK, J.A. to Mali, how we do? Yo, decent people, stand up and be equal. Yeah. Yeah, one finger in the air. I swing from the left to the right. Nous les c'est ça, nous c'est beau. Allora, Radio Onda Rossa 18:06, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza. In attesa di Soul Peanuts, continua per un po' la conduzione di Radio Africa. Insomma, abbiamo parlato prima, abbiamo fatto un accenno alla morte di Herman Wallace, che era una pantera nera che è rimasto 41 anni in prigione, in una prigione in isolamento, e faceva parte del gruppo che viene definito Angola Free, perché la il penitenziario di Louisiana States era definito Angola, ed erano tre Black Panther accusati di aver ucciso un poliziotto. Un processo farsa in cui appunto non furono prodotte mai prove. A un certo punto ci fu anche la possibilità di avere la controprova del DNA, che fu negata, e Wallace era malato di tumore ed è stato liberato un giorno prima di morire, ma perché un giudice aveva definito incostituzionale la sentenza che lo aveva condannato. E quello che la reazione, per esempio, di Robert King, 70 anni, un compagno di Wallace, membro del gruppo Angola Free, è stata rilasciato nel 2001, la sua reazione è stata quella di tristezza per una vita che è stata praticamente gettata via come spazzatura. Io penso che la società in cui viviamo consideri la vita come se fosse una spazzatura, ma io comunque, insieme agli altri, riscriverò questa storia. Soul Peanuts è arrivato, quindi rimanete sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, perché appunto ci sarà Soul Peanuts e il suo jazz fino alle 19.30. Questo era Salif Keita con i Roots Manuva. E allora Radio Africa se ne va e vi lascia in compagnia di questo brano dei Dap Colossus dall'Etiopia, e ci risentiamo sabato prossimo. can't bust up gear. What's up for? Boo-boo-doo.